Benvenuti a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a tutto tondo in onda sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Un salotto convivio tra musicisti, addetti ai lavori e non solo, rivolto a soddisfare le curiosità che girano intorno al mondo della musica. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me a co-condurre il nostro viaggio una già nota voce di Radio Fujiko, Miss Francesca Clementoni. Ben trovata Francesca, come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Come vanno questi suoni paralleli? Benissimo, tutto poi bene. Oggi... siamo ormai alla 7ª, 8ª puntata, stiamo per entrare un po' nel clou, no, del programma. Esattamente. Tanti sono gli ospiti che si alternano. Noi sappiamo, abbiamo il nostro programma, parla dei nuovi generi musicali, di come si miscelano con i vecchi sound, un programma che parla dei processi creativi che sono alla base della composizione musicale, ma anche di quello che è il settore, diciamo, manageriale che ruota intorno al sistema musica. Ne abbiamo parlato con tanti ospiti, anche oggi abbiamo la fortuna di avere con noi altre, diciamo, opinioni molto importanti. Prima di presentare il nostro ospite della giornata, Franci, direi di andare un po' subito ad introdurlo musicalmente facendo ascoltare una delle sue composizioni, uno dei suoi suoni paralleli, no? Per Posso cominciare. Dire una cosa prima? Certamente. Sono molto onorata di essere davanti per la prima volta questo microfono a forma di testa che sì. Sta riprendendo i nostri suoni paralleli e devo dire che è una peculiarità della nostra certo, trasmissione. Perché va ricordato che Suoni Paralleli viene registrata nel -1 Lab di Bologna in binaurale grazie all'apporto di Stefano Arciero e con l'utilizzo di questa tecnologia che permette di prendere, insomma, le nostre voci e tutti i suoni che ruotano intorno a questo microfono con delle posizioni nello spazio che sono più facilmente percepibili. Direi di tornare adesso a parlare di musica, direi di tornare a parlare del nostro ospite. Facciamo, diciamo, prima partire la base o diciamo al volo chi abbiamo qui con noi? Facciamo partire la base. Abbiamo sentito un sospiro dell'ospite, però. Benvenuti ancora, queste sono i paralleli Radio Città Fujiko 103.1 FM. I played that track already. jack all day. Ancora ben trovati a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a tutto tondo in onda sulle frequenze di Radio Città Fucico 103.1 FM. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me Francesca Cleventoni alla co-conduzione. Franci, come diciamo che il nostro primo approccio per quello che riguarda l'ascolto, insomma, il concept, avvisa il pubblico che stanno per arrivare dei produttori di un certo calibro nel nostro programma. Non che non ce ne siano stati già un bel po', diciamo che ci stiamo frequentando, insomma, un po' tutta la parte migliore dell'underground bolognese, no? Insomma, c'è chi può. Bene, bene, allora l'abbiamo introdotto musicalmente. Il nostro primo ospite oggi è Francesco Brini, in arte Frank Agrario, diciamo che una figura nell'ambito del nostro panorama musicale molto eclettica, che avremo, diciamo, adesso l'onore di intervistare, sapere quelle che sono le sue opinioni su quello che noi poi continuamente imponiamo come concept del nostro programma. Quindi che cosa ne penseranno i nostri ospiti del mix di culture e di suoni che porta alla stesura della nuova musica, che cosa ne penseranno i nostri ospiti dei live, dello stato di salute dei live in Italia, e poi quelle che sono un po' le influenze che vanno a portare come input nuovi suoni all'interno della musica che viene prodotta, insomma, nei prossimi tempi e da subito, diciamo così. Francesco Brini, Frank Agrario, benvenuto a Suoni Paralleli. Ciao a tutti e grazie dell'invito. Ci mancherebbe, era veramente un bel po' che volevamo farci due chiacchiere con te. Mi fa piacere che finalmente, insomma, siamo riusciti. Sappiamo, insomma, che oltre a parlare con te di musica, perché sei un musicista, potremmo parlare, insomma, di tanti argomenti, di tanti aspetti che riguardano il settore musicale, dalla produzione, per quello che riguarda, diciamo, la parte del producer con Frank Agrario, che abbiamo appena fatto ascoltare e continueremo anche adesso a far ascoltare, fino a quello che riguarda poi la parte live con, ad esempio, le tue band, come ad esempio i The Bank, che, insomma, ci hanno subito colpito nell'ascolto. Io direi, Frank, anzitutto per darti il benvenuto, ti volevo chiedere una cosa molto semplice che chiediamo un po' a tutti, proprio per dare subito l'input. Cosa stai ascoltando ultimamente? Quali sono le tue influenze? Di che musica ti stai circondando? Ma è sempre difficile dire cosa sto ascoltando in questo momento, perché ascolto un milione di cose in continuazione. Ti posso dire cosa ho ascoltato questa mattina? Certo, va più che bene in realtà, perché ho utilizzato il Spotify come tantissimi. Sono bene. Partito da Bombino, che suonava ieri sera a Bologna, ho schiacciato il pulsante radio e mi sono fatto un tour nel Sud Sahara. Bene, bene, direi che sei partito anche da un certo livello, direi. E per quello che riguarda invece tutto quello che può essere Bombino a Bologna, ne abbiamo sentito parlare, è vero? Noi sappiamo che è stato davvero un bel concerto e che Bombino, insomma, ormai sta avendo anche in Italia un certo seguito, finalmente, grazie a eventi grossi, a dei festival importanti come ad esempio l'Ariano Folk Festival, che l'ha portato in Italia diverse volte anche un po' all'inizio. In questo momento è abbastanza seguito anche in Italia. Italia, come altri, diciamo, artisti che abbiamo anche seguito come suoni paralleli. L'esempio, mi ricordo Grammatic, si ricordi, ne avevamo parlato, un artista che non che sia dello stesso genere musicale, chiaramente, che però, diciamo, negli ultimi anni in Europa è cresciuto e finalmente stanno arrivando anche in Italia le loro produzioni, e è davvero un piacere averlo. Io direi però di tornare al brano che abbiamo sentito. Io vorrei far ascoltare queste produzioni di Frank Grano. Prima però vorrei fare una domanda che non c'entra con l'ascolto. Certo. Ma le coreografie del video che abbiamo visto? Ah, questa è una storia simpatica. Come nasce dal fatto che io sono un pazzo che gira su tutti i siti internet di cose strane. Mi sono trovato su Fiverr.com, che consiglio a tutti, qualsiasi cosa avete bisogno, per $5 ve la fanno. E c'è una sezione che si chiama Bizzarro, e tra questi lavori che uno può avere per $5, appunto, c'erano questi ragazzi del Bangladesh che facevano dei messaggi d'auguri con scritto ballando con questa coreografia e scrivendoci sulla pancia tipo tanti auguri Antonino. E gli ho chiesto: puoi evitare di fare gli auguri a Antonino e ballare sulla mia di canzone? E così è nato il video. Fantastico. Benissimo, benissimo. Allora io direi di adesso andare a far ascoltare un po', la curiosità si fa sentire, una delle produzioni di Frank Agrario. Questa è Nairobi Funk, sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM, sempre su Suoni Paralleli. We'll be right back. Ancora ben trovati, Suoni Paralleli, Radio Città Fujiko. Benvenuta ancora Francesca. Come stanno andando questi suoni paralleli? Stiamo ascoltando Frank Agrario. Abbiamo qui ospite con noi Francesco Brini. Come va? Come va questa suoni paralleli? Bene, sarei curiosa di sapere su cosa stava lavorando. Hai visto quante influenze, no? E quali sono state le influenze su cui è andato a qui scavare. Diciamolo pure, French, ti chiamo tra amici, Frank Agrario. Diciamo che in questo brano che abbiamo appena ascoltato c'era tanto di influenza per quello che riguardava la tua parte, diciamo, il beat africano, no? Quella parte sì. Afrobeat che fa un po' parte di tutti gli europei. Una componente molto importante che va preservata. Che pensi sia ultimamente questo genere musicale, diciamo l'Africa in sé, è un po' più presente nei nostri ultimi è lavori. È al top pensi delle classifiche pop. Sì, c'è un motivo per questo, secondo te? La stanno riconoscendo finalmente questo battito africano che scorre in tutti i generi musicali occidentali? Sta diventando ufficiale questa cosa? Ma questa cosa si è ufficializzata. Meno male, no? Cioè, così, punto. E poi le cose ritornano, no? Per cui certo. Negli anni 70 era importante l'Africa con la sua musica e 40 anni dopo ritorno. Tu pensi che oltre che ritmicamente, perché ovviamente spesso e volentieri l'Africa è legata a un concetto ritmico importante, mm-hmm. il battito primordiale, no? Sappiamo bene cosa vuol dire musicalmente parlando. Pensi che dal punto di vista elettronico invece, no? Chiaramente il beat è importante, quindi il tempo chiaramente nella musica è una delle colonne importanti, ma per quello che riguarda invece il suono, il campione, ritrovare il sound afrobeat, ritrovare quel suono che può essere ricercato e avere una radice così importante, può essere utilizzabile per una campionatura nella musica elettronica attuale, secondo te? Assolutamente sì, è la cosa che mi fa pensare è che cioè, tutte queste cose che stanno tornando si ispirano appunto a quella che era la musica africana in Nigeria, in Benin, eccetera, eccetera, negli anni 70, che non era nient'altro che la loro versione della musica americana. Cioè loro pensavano di fare James Brown e invece gli uscivano queste cose forse sì. ancora meglio di James Brown, quindi significa andare a prendere una parte di musica che pezzo abbiamo appena sentito, campiona all'inizio Tony Allen e alla fine Fela Kuti. È fantastico. E il sì, beat infatti. È un campione. Diciamo che sono una coppia d'oro dell'afrobeat che ne ha fatte di cotte di brune. Diciamo a che comunque è un cerchio che si chiude perché anche James Brown a sua volta aveva delle ritmiche che provenivano da lì, dal passato, diciamo, certo. da quella che era stata. L'esportazione forzata di persone dall'Africa. Anche perché suoni paralleli, sappiamo che il brano concept è sempre stato Zombie di Fela Kuti, quindi Tony Allen. Comunque Big James Fela Brown rientrano. Ha passato moltissimo tempo in Africa, certo. soprattutto in occasione di Rumble in the Jungle, che era l'incontro di pugilato che venne organizzato in Zaire nell'84. Sì. E quindi lui organizzarono un festival di fianco a questo evento sportivo. E dove ha perso un sacco di soldi sia per l'evento sportivo che per il festival e appunto James Brown era uno degli ospiti, c'erano tutti gli ospiti di musica nera, James Brown fu uno di quelli e da lì iniziò un tour africano di 2 mesi, quindi è stato un sacco di tempo in Africa. Fantastico, fantastico. Comunque c'è da dire che questa tendenza che riguarda un po' il suono, quindi il recupero della tradizione, della radice che si sta anche un po' sviluppando nel 2017, lo possiamo dire, finalmente è ritornato questo tema. Si sta sviluppando anche un po' nella ricerca del materiale con cui vengono prodotti poi i dischi, ad esempio i CD, i supporti USB e tutto quello che riguarda i nuovi supporti che fanno parte del web, del mondo del web, quindi le track digitali come normalmente le conosciamo. C'è da segnalare però un fortissimo ritorno del vinile, no? Vero, French? Io ti volevo coinvolgere su questo argomento perché so che tu sei un appassionato. Da tanti anni segui anche un po' tutto il percorso che il vinile sta facendo per tornare in voga, fino al punto di arrivare a stampare qualcosa al tuo Spectrum Studio, certo. no? di Bologna. Quindi volevamo un attimo capire cosa ne pensi di questo ritorno del vinile. Beh, e quanto torna, è importante nella tua attività. Non torna solo il vinile, ma tornano anche le cassette. E infatti, no. è una cosa abbiamo visto. Figa, secondo me. E tra un po' torneremo con il mangianastro in giro a fare footing. Col Walkman. Beh, non ce l'hai il Walkman. Io ce l'ho, certo. è funzionale. Infatti ce l'abbiamo lì dagli anni 80, incorniciato. Il problema sarà per quelli che sono nati negli anni 2000, no? Non hai il Walkman. Ma li riproducono di nuovo, ci sono di nuovo su Amazon, puoi andare a comprartelo, certo, un Walkman se vuoi. No, comunque il vinile è importante secondo te in questo percorso. Ed è... Cioè il vinile, siamo in un'era in cui manca un po' il concetto di possesso della musica, no? Anche il CD secondo me ha lasciato il tempo che aveva. nel senso che è difficile vendere molti CD, difficile vendere qualche CD perché c'è tutto sulla rete, uno può andare in rete, ascoltarsi tutto su YouTube, su Spotify, su Tidal, certo. Ascoltateci su Tidal che ci paga di più. Tra parentesi. E però gli amanti della musica o forse quelli della nostra generazione, non saprei come dire, hanno questa idea del concetto di possedere un oggetto e di avercelo, di supportare l'artista, quando invece che, non so, centesimi di euro per ogni stream, pagando 20 euro magari un bel vinile, e sicuramente è un diventa un oggetto maggiore. Fisico che ti sta anche a fianco, che è un altro tipo di apporto, di approccio più che altro. E no? La con cosa fondamentale è la scoperta, certo. Nel senso che il vinile, uno, te lo tieni nella tua viniliteca e dopo magari dopo 10 anni lo riscopri, scopri che avevi un disco bellissimo che avevi sottovalutato, ma allo stesso tempo è un criterio di ricerca della musica, invece che farsi ispirare come ho fatto io questa mattina da Spotify e lasciare che sia lui a guidarmi, è bello il concetto di andare in un negozio dove non conosci niente, non conosci nulla, inizi a scartabellare tra i vinili, fai un po' di digging e trovi delle perle che magari ti influenzano. Il mio amore con l'Africa è iniziato così, ho comprato un disco per caso in mercatino e da lì ho finito i soldi sul conto corrente. Sì, e infatti, e tra l'altro voglio dire che il tuo amore per l'Africa, poi a prescindere dai danni economici, ti ha portato un po' in giro ad esplorare diverse realtà, e alcune diverse realtà insomma hanno anche molto interessato. Ma sei stato in Africa? Sì, sono stato in Africa. Ecco, no, vorrei sapere anche la tua parte viaggi. Questo è stato il tuo impatto, no? Infatti con l'Africa ce n'è stato. Io direi di prima di passare a questo argomento, facciamo ascoltare qualcosa che ha contaminato, perché come Frank Agrario abbiamo avuto la parte, diciamo, del beat che interessava la parte più elettronica di Frank. Sì, sì. No? Adesso andiamo invece ad ascoltare quella che è un po' una parte live, perché introdurremo questo tema dell'impatto anche live, no? Delle produzioni, e volevo far ascoltare un progetto funk, quindi che recupera quello che era il nostro discorso appena fatto, si chiama The Bank, yeah. È un progetto molto interessante, Francia, davvero, con Jeff Jones alla chitarra, alla voce, e abbiamo avuto modo insomma di ascoltare diverse vostre produzioni che insomma mi sembrano molto interessanti. Adesso andiamo a farle ascoltare sempre qui su Suoni Paralleli, sempre su Radio Città Fujiko. Questo è The Bank feat. Jeff Jones. I went from Brooklyn to Boston down to Miami too. Brought some soul to Havana cause they were overdue. I went from Rome to London, Berlin and LA, up to San Francisco, baby, cause I know how to play. E ancora ben trovati Suoni Paralleli, secondo break, dopo la pubblicità, un programma di approfondimento sulla musica tutto tondo in onda sulle frequenze di Radio Città Fucico 103.1 FM. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me Francesca Clementoni a co-condurre il nostro percorso, i nostri, all'interno di questi suoni paralleli. Franci, come sta andando questa puntata che si occupa un po' sia di produzione artistica che di influenze mi che piace. Di un sacco di altri argomenti stanno uscendo, no? Un sacco di cose interessanti. E a proposito di questo, sì, mi è rimasta da prima della pubblicità una domanda da rivolgere al nostro ospite. Esatto. Siamo qui oggi con noi Mr. Francesco Brini in arte Frank Agrario, Spectrum Studio. Insomma, adesso abbiamo fatto ascoltare anche uno dei brani The Bank, delle produzioni sempre del panorama musicale di Francesco Brini. Ne dobbiamo far ascoltare ancora tante, giusto Mr. French? Ancora benvenuto a Suoni Paralleli. Spero, non ho voglia di parlare, ascoltiamo della musica. Bene, bene, oddio, e anche non ha voglia, non rilascio, non ha amici tra i cigli. Vabbè, attenzione, però se sollecitato parla. Sì, a quanto pare sì, abbiamo fatto ascoltare tanta roba che parla per French, effettivamente. Esatto. Quindi Frank Agrario e The Bank ci hanno appena illustrato un po' quello che significa contaminazione nella produzione di Frank Agrario. Dicevi di questa curiosità? Ecco Frank, tu dicevi prima, mi è nata questa passione gironzolando per un mercatino, per l'Africa, la musica africana, le ritmiche africane, eccetera. Un uomo, un ragazzo, un musicista, innamorato dell'Africa, è poi andato in Africa e com'è stato l'incontro? Ma qui sta un'altra storia, perché ci sono andato che non ero ancora un uomo, un ragazzo, ma ero un bambino di 7-8 anni. Che non suonava ancora, che non aveva ancora interessi nella musica, e arrivai appunto a Nairobi. E a Nairobi fui folgorato da una cosa che non c'entrava niente con Nairobi, ma c'erano il classico villaggio turistico e per l'ultimo dell'anno c'erano i suonatori di steel drum. Wow. Da lì, che sono da tutt'altra parte del mondo, e da lì però mi prese benissimo e iniziai a chiedere ai miei genitori di comprarmi le cassette e queste cose qua. Quindi sì, ci sono andato, ci sono ritornato anni dopo, però in Libia, e quindi non esattamente nella culla della musica africana di cui stiamo parlando, e sì, è un posto che ti lascia tanto comunque, effettivamente. E poi il bello della diretta è che queste influenze, grazie a Dio, sono fruibili anche tramite il tuo percorso musicale, quindi è bello anche sapere che è un posto che comunque ti lascia tanto, ma poi nella tua vita quotidianamente hai modo di poter insomma utilizzare questi diciamo, come si può dire, elementi importanti che ti aiutano artisticamente e socialmente a livello etico. L'Africa in questo caso sappiamo bene essere un punto di riferimento per tanti, oltre a James Brown di cui parlavamo prima. Bene, senti French, abbiamo fatto anche un po' un piccolo discorso per quello che riguardava il vinile, il ritorno di questo vinile. Io volevo introdurre un piccolo argomento che riguarda un po' le tue produzioni che ti hanno portato davvero un po' dappertutto. Hai fatto diverse collaborazioni, anche un po' riprendendo con la tua etichetta, adesso andremo a far ascoltare qualcosa che è anche uscito in vinile tra l'altro dalla tua etichetta, e collaborando anche con diverse realtà come ad esempio Garrincha Dischi, come ad esempio la produzione del disco degli Stato Sociale, che stanno avendo un bel riscontro. Come credi che in questo momento il mercato, tra virgolette, italiano stia rispondendo alla parte della ricerca strumentale, vale a dire i producer oppure i ricercatori dal punto di vista della produzione che lavorano come te in questo momento sono percepiti dal mercato nel senso giusto, oppure l'Italia rimane ancora uno degli stati tabù per l'innovazione? Sai, divento cinico quando mi chiedi di parlare di queste cose, penso che tanto si dica no, te perché ne chiederò di peggio, quindi abituati. Cioè, sai che posso essere ancora più cinico. Si pensa sempre che l'Italia sia indietro, sia così, che negli altri stati ci sia chissà che, però sono convinto che se vai in un paesino della Francia è come andare in un paesino di Bologna, è la stessa cosa. Dice Bologna, quanto sì, Bologna è attenta alla musica, è attenta a Parigi, è attenta a Londra, è attenta. Tu dici che l'Europa un po' è abbastanza omogenea in questo senso? L'Europa è molto omogenea a livello di capitali e grosse città. Sicuramente, poi sicuramente magari ci sono delle altre cose, cioè, sono città più piccole e quindi si tende, c'è meno gente che va ai concerti, c'è meno gente che compra dischi, eccetera, certo, rispetto a Londra. Se tu pensi, faccio uscire un disco a Londra, non so, 9 milioni di persone, 12 milioni di persone. Diciamo che un pubblico già di base è molto vendere più. Vendere 1000 copie, se non vendi 1000 copie sei un poverino. Noi sappiamo anche che tu sei stato spesso con The Bank, col progetto che abbiamo ascoltato prima del break pubblicitario, sei stato spesso anche in America. Sì. Per quello che riguarda il live, volevo sapere, no? Tu credi che la situazione sia la stessa? Cioè l'Italia anche per quello che riguarda il live è un po' nella fase, diciamo, Europa omogenea, oppure invece in quel caso l'Italia ha qualcosa in meno rispetto agli altri stati europei, rispetto alla stessa America, diciamo, in cui sei stato tu, insomma. Ma quello che ti posso America dire fa da guida, no? È che negli Stati Uniti, mentre in Italia abbiamo bisogno di un posto preciso per fare un concerto, cioè il locale adibito, sì. E infatti con Jeff, che abbiamo sentito prima, ci scherziamo sempre, diciamo che in Italia facciamo i proper concerts mentre là suonano dovunque, e quindi la differenza fondamentale è che se ci sono 1000 ristoranti, 899 avranno una o due band live almeno nei giorni di weekend, certo. E che fanno dal pomeriggio a sera, e quindi le band quindi creano un mercato per le band, creano un mercato per la musica che poi viene scaricata o comprata direttamente, e innanzitutto ti insegnano a suonare, perché se tu fai un concerto al mese impari a suonare in un modo, se fai 30 concerti al mese di 4 ore impari a suonare in un altro modo. Certo. Quindi questa è la grossa differenza. Certo. Beh, ci direi di andare ad ascoltare adesso uno dei lavori che invece, insomma, è nato da quelle che sono le tue attività per quello che riguarda la produzione. Andrei a far ascoltare una di quelle produzioni che ha avuto anche un'uscita in vinile, sì. Visto che parlavamo di questo, con lo Spectrum Studio di riferimento, quell'artista è Ciangolo, insomma, la produzione invece è di un'etichetta che fa sempre riferimento a tante attività che avete fatto, giusto? La vuoi presentare tu, giusto per andare allora, un po' nel preciso che tutto quello che abbiamo sentito è uscito su vinile, tutto, dalla prima alle ultime cose che abbiamo sentito, alcune su che l'hai prodotto tu, dai. Diciamolo pure, hai questa, è un po' uno standard delle tue produzioni, sì, quella sì. Di avere anche il vinile come riferimento. Ci vero? Tengo, io devo avercelo. Sì, sì. E tant'è che ho una macchina, per cui se per caso qualcosa non esce in vinile, io me lo stampo da solo. E a casa mia sta nella mia collezione, la fantastico. Mia copia in vinile. E quello che ascoltiamo adesso è un mio esperimento, appunto, per fare ricrescere l'amore per il vinile e per il dig in particolare. È un'etichetta che si chiama Spare Change Disco, che esce solo sul vinile, faccio 30 copie numerate per ogni uscita, quindi ho voluto un po' ricercare il concetto di, appunto, del digging, di trovare delle gemme rarissime che puoi trovare in un mercatino inaspettatamente, in un negozio di dischi o sulla rete, e con l'idea di fare avere a chiunque compra questi dischi qualcosa di speciale, super unico. E quello che ascoltiamo è uscito la scorsa settimana, il pezzo si chiama Ciango, è di N2B, che è un produttore di Reggio Emilia. Bene, andiamo ad ascoltare quindi questo N2B, Ciango, sempre su Suoni Paralleli, sempre su Radio Città Fucico, a fra poco. Ciango, oh, come fuori baglio, cu Ciango, lo mio. Alla dola, pilando, la guau, la uba, ocire. Buru, taqua, mowi, bam, bam, bam, lolo, olu, oca, eri, ei. Baba, emi, ure, ure, core, iroko, iroko, roqueque. Ure, ure, core, iroko, iroko, roqueque. Baiña cori aguaña, aguaña a mi kiki. Olúo solo la mesa, wo. Aina uka, kaman wo. Aina uka, kaman wo. Aina uka, kaman wo. Aina uka, kaman wo. Aina uka, kaman wo. Aina uka, kaman wo. Aina uka, kaman wo. Aina uka, kaman wo. Aina uka, kaman wo. Aina uka, kaman e ancora ben trovati su Suoni Paralleli, Radio Città Fujiko, chi vi parla è Antonino Barresi, come Francesca Clementoni per questa puntata di Suoni Paralleli che ci sta dando veramente tanti spunti e modo di parlare veramente di diversi argomenti con il nostro ospite, Mr. Frank Agrario, Francesco Bini. Ancora benvenuto, è stato davvero un piacere, Francia, avere la possibilità anche di parlare di argomenti così diversi con te, che insomma ti occupi di diverse cose. Abbiamo ascoltato la tua ecletticità dal punto di vista della produzione musicale, anche dell'input. Volevo chiudere ringraziando personalmente, insomma, anche un po' tramite te, tutti gli artisti che stanno rispondendo ai nostri inviti a Suoni Paralleli, proprio perché sono davvero tanti gli argomenti di cui stiamo riuscendo a dare una visione alternativa, no? Quindi dal punto di vista della registrazione, dal punto di vista della produzione, dal punto di vista della creatività e dell'input e delle influenze che diventano un po' la colonna portante, il traino nella nuova registrazione della composizione della nuova musica. La cosa che sto notando nel susseguirsi dei nostri ospiti è la curiosità che emerge e sì, quindi il fatto che li fa operare su più ambiti, su più progetti, su più sfaccettature del mondo musicale. Abbiamo visto infatti come il nostro ospite, oltre che occuparsi della produzione dei dischi propri, insomma si occupa anche della produzione dei dischi in collaborazione anche di tanti artisti italiani, con ad esempio etichette come Garrincha. Abbiamo visto infatti, ascolteremo qualcosa poi nelle prossime puntate anche dello Stato Sociale, proprio perché avremo la prossima settimana anche come ospite Enrico Roberto H. Carota dello Stato Sociale, che presenterà con noi qui anche il progetto Keaton di ultima uscita, no? Sempre che vede in realtà una collaborazione con tutto il panorama sia Garrincha, però allo stesso tempo Frank Agrario in qualche maniera rimane vicino a queste produzioni. Ci ha fatto davvero piacere, French, avere l'occasione di far ascoltare la tua produzione. Questi Suoni Paralleli ringraziano tutto il nostro pubblico, con il coordinamento tecnico di Gino Di Fazio, sempre da ringraziare, la registrazione presso il Meno Uno Lab in binaurale, grazie Mr. Stefano Arcero. Francesca Clementoni, Antonino Barresi vi danno appuntamento alla prossima settimana, sempre su Radio Città Fujiko, sempre su Suoni Paralleli. Ancora grazie Mr. Frank Agrario per essere stato con noi. Ciao a tutti. Alla prossima. Ciao.